Allora, sono in nota per adesso, professore Incardona, Marcucci, Todeschini, Cavacciuti, Boff, Rossi. Queste sono quelle note per intervenire. Cominciamo a sentire subito, prego sempre la brevità e la concentrazione. Professor Incardona, io non sto adesso troppo, è un problema. A togliere le parole è un problema. Io mi affido alla brevità dei singoli. Io pensavo di osservare un silenzio non casualmente religioso, dato che ieri sono stato un po' travolto dalla enfatizzazione teologistica, che per un verso mi ha lasciato come rimpannucciato nei panni della povera Penia, nuova metafisica, schiacciato in un vicolo cieco dal Poros, nuovo teologo, impenitente ma felice, e a stegno. E quindi, tanto da togliere alla Penia, a questa povera metafisica, ogni sospetto di seduzione possibile. Per altro verso, anche intontito dal rombo della Ferrari teologica che lasciava alle spalle la povera metafisica ancora viaggiante e ansimando sul topolino di vecchi tempi passati. E poi infine devo dire anche il vero, tramortito da qualche svarione disinvolto soprattutto sui rapporti fra ideologia e filosofia in Rosmini. M'ero anche consolato in qualche misura con gli echi paolini della Chenea Pate, dell'invettiva paolina del Blepete. Quindi dico, se c'è un antesignano così illustre che già allora inveiva o pronunciava invettive stimolanti sulla filosofia del tempo, però giudaizzante. Per cui Blepete, guardatevi da che cosa, dalla Chenea Pate, la filosofia come Chenea Pate. Pensavo, beh, sarà il caso di osservare il silenzio e non procedere. Fuor di metafora, devo dire che in una situazione così delicata e così feconda oggi di studi rosminiani, sarebbe il caso di ricordare che questioni ormai datate, ormai superate, ormai non più questionabili, sui rapporti fra filosofia e teologia, fra metafisica, filosofia e teologia, non sono più veramente, dico il vero, riconducibili seriamente alla solita questione dell'autonomia, dell'ancillarità e cose simili, perché abbia una contezza anche minima del dibattito filosofico da ieri a oggi, da quando Aristotele ha pensato il principio come non soltanto glorimotatene, ma aniupoteton, a modo suo. La questione è tutt'altra, è tutt'altra. E proprio Rosmini su questo punto è una pagina decisiva, proprio su questo punto. Per l'assolutezza del cosmo speculativo, non so se è insidiato o glorificato dalla perfezione teologica. E devo dire, appunto, su questo punto che il silenzio lo rompo non solo per omaggio a Xavier Tillet, ma per riconoscere nella sua lezione una profondità effettiva, autentica, che stimola il discorso. Con padre Tillet ho un discorso aperto perché non molti anni dietro ho pubblicato una lunga nota critica sulla sua epistologia, alla quale ho avuto l'amabilità di rispondere con alcune acutissime pagine che riproporrò sul prossimo numero del giornale di Metafisica con una mia replica, aprendo su questo un dibattito che mi auguro fecondo, certamente per quanto riguarda padre Tillet, senza dubbio fecondo, per prospettive suggestive ulteriori, ma critiche ulteriori. Ma per dire e venire subito al dunque molto rapidamente e schematicamente, la relazione di Tillet ha riproposto il nucleo scoperto e nevralgico, il nucleo nevralgico dei sviluppi tra teologico e filosofico, non la riproposizione del pacchetto, la teologia, la metafisica, come in parte è stato fatto. Per cui ragioniamo di prodotti e non ragioniamo della produzione. Per cui quando io sento Padre Dieter che, diciamo così, con Rosmini, io dico crocifige nel verbo la doppiezza delle due vie, che per una parte conduce al teologico supremo, per altra riconduce al filosofico intimo, se vogliamo, ma debolmente forte. Io devo dire, su questo punto abbiamo trovato il nucleo della discussione, cioè la germinazione della disputa, non la elencazione causidica, anche se vogliamo, del prodotto già confezionato. Per cui su questo punto io mi chiedo se non sia il caso di ripetere un po' a memoria nostra il fatto che il verbo è una sorta di croce che ancora si ripropone filosoficamente, astrattamente, nei confronti di una croce che, per i fatti suoi, per se stessa, quando fu, subì e offrì lo spettacolo della indivisibilità della veste, ma non della veste inconsutile, la tunica di Cristo, ma della persona di Cristo, che i legionari non riuscirono a dividere e a scommettere sul serio, e che la filosofia forse rosminianamente ha cercato di scommettere proprio sul punto nevralgico che dobbiamo sapere toccare senza farcene bruciare e senza farcene, diciamo così, tramortire. È il punto nevralgico per cui, se ripetiamo con Rosmini un passo che credo decisivo, libro terzo, capitolo quarto, paragrafo 1185, in questa maniera, testuale, in questa maniera, l'essere ideale è un astratto divino e teosofico, non umano e teologico, non umano e ideologico. È l'essere obiettivo, che è diviso per astrazione dall'essere subiettivo, considerato e intuito da sé solo. Mi pare, e mi limito solo a questo, per necessità di tempo, mi pare il nucleo sul quale noi dovremmo continuare a discutere o cominciare a discutere, perché è il punto fondamentale da cui poi si diparte, se è possibile, per seguirla, la linea speculativa dell'astrazione teosofica, nella sua ampiezza interna, nelle sue refluenze esterne, che Rosmini non riuscì forse a controllare fino in fondo, ma che rimane, credo, il punto fondamentale di raccordo e di dialettica possibile tra filosofia nella sua produzione. I paragrafi 22 e 23, mi pare di ricordare, della prefazione alla teosofia, recitano a questo punto, in questo senso, un momento fondamentale per il quale possiamo leggere rosminianamente che il sistema della verità è una produzione. Il principio non è una supposizione. È testuale, non è una supposizione, è un principio assoluto, trovato il quale l'essere ideale, una volta che viene ridotto a giudizio, dice Rosmini pericolosissimamente, ridotto a giudizio, si riduce a dire soltanto il fatto che l'essere è l'essere, e aggiunge Rosmini, cosa che sarebbe vera anche se non ci fosse il soggetto umano a intuire e a pronunciare questo. Sono momenti di una dialettica possibile inimmaginabile, che dovremmo riuscire a riprendere, a riproporre, a ristudiare, a rileggere e a rimettere in moto e a rimettere a rischio, ma a rischio serio, non a rischio, diciamo così, già preconfezionato da strutture, diciamo, anteriori e anche in qualche misura posteriori, che lasciano il vuoto poi del discorso per se stesso. Sì, per cortesia, il professor Marcucci vuole essere breve, possiamo sentire ancora lui, altrimenti risponde. Allora ancora lui, breve per cortesia, poi rispondo i due relatori. Io dovrò fare due domande, quindi dovrò essere necessariamente breve. Molto bene, grazie. E l'altro al professor Molto bene, grazie. Coda. E, per ben due volte il professor Chietti ha posto il problema dei rapporti tra Rosmini e Kant, in maniera direi piuttosto veloce, quasi fugace. E se ho capito bene erano rapporti di contrapposizione. Io chiedo al professor Tiet se ci dice qualcosa di più su questo tema. Per noi è estremamente interessante se teniamo presente il fatto che Gentile ha scritto un libro su Rosmini in cui cercava di dimostrare come Rosmini era un kantiano, anche se io posso dirvi per esperienza professionale che Rosmini non è certamente un lettore filologicamente esatto di Kant, filologicamente avvertì direi di Kant, perché i suoi interessi vanno altrove. E a proposito di Kant, se mi permettete, vorrei aggiungere brevissimamente che è vero che Kant fonda la morale sulla libertà, però non dobbiamo dimenticare che la libertà è un postulato e che i postulati nella religione pratica sono tre. Sono la libertà, sì, ma anche l'immortalità dell'anima e l'esistenza di Dio. E questi secondi due non sono aggiunti estrinsecamente, perché Kant non solo parla di bene e supremo, Oberst Gutte a proposito della virtù, ma non dimentichiamo che c'è un bene sommo, Höchste Gutte, cioè che è l'unione di virtù e felicità, la quale unione di virtù e felicità non è realizzabile su questa terra. E quindi la presenza di l'immortalità dell'anima e la presenza di Dio viene ad essere un qualcosa di necessario perché la morale veramente abbia la sua realizzazione. Kant, che aveva studiato gli inglesi, non può rinunciare alla realizzazione di qualcosa. Non dimentichiamo poi che l'opera sulla religione è del 93, nell'opera sulla religione si parla sì di chiesa invisibile, ma anche di chiesa visibile, è tutta un'opera centrata sul cristianesimo. Non dimentichiamo nemmeno che nel 92, e qui poi ora vi leggo a quanto devo chiedere al professor Coda, si discute di Teodicea nel 92, si critica la Teodicea laibniziana, però per fondare una nuova Teodicea, e ci sono delle pagine bellissime che lei sicuramente conoscerà, le pagine bellissime su Giove. Questa è la prima domanda per quanto riguarda il professor Die. Per quanto riguarda il professor Okuda, la domanda è molto più facile, semplice e breve. All'inizio del suo discorso, lei, professore, ha parlato di epistemologia della Trinità e ha ripetuto questa frase perlomeno due o tre volte. Ora, io capisco benissimo cosa vuol dire epistemologia della matematica, capisco altrettanto bene cosa vuol dire epistemologia della fisica. Cosa vuol dire epistemologia dell'arte? Io stesso nel 70, in un mio libro, ho parlato di epistemologia della religione. Era un libro dedicato alla teologia anglosassone degli anni 1850, una teologia anglosassone che fiorisce soprattutto a Oxford, su stimoli del neocantismo inglese che proveniva da Edimburgo tramite il grosso filosofo edimburghese William Hamilton. Quindi ho usato questa frase, però nel titolo, oltre che epistemologia della religione, avevo messo filosofia della coscienza ed epistemologia della religione, e il titolo non era casuale, in Mansell, questo è il libro del 79. Ora, il professor Coda, andando avanti nel suo discorso, ha usato un'altra espressione, che cito testualmente, l'espressione esperienza soggettiva della Trinità. Allora io le chiedo in maniera precisa e puntuale. Primo, c'è un certo rapporto di identità o di analogia tra le due espressioni? Seconda domanda, non c'è nessun rapporto? Terza domanda, dato che tertium datur, non ha senso nemmeno porci il problema del loro rapporto? Grazie. Adesso risponde prima padre Tiet, poi professor Coda. Ringrazio molto l'amico. Devo ringraziare l'amico Nunzio Incarnone per il suo bellissimo, brillantissimo intervento, e vedo che nel fondo delle cose siamo, credo, d'accordo, nel senso che io non ho mai detto nei miei scritti, anche in questa produzione, che non ci sia una filosofia, una metafisica che sia valida, sia autonoma, e soltanto che ho voluto circondarla o magari superarla da una filosofia cristiana che è già sulle soglie della teologia e della fede, della rivelazione. No, è vero che ieri la teologia, anche questa mattina, ha fatto le parti del leone di Giuda che ha divorato il cagnolino metafisico filosofico, ma questo non era voluto. Perlomeno da me personalmente, e poi vedo che il nostro dialogo è aperto e continuerà grazie all'ospitalità del giornale di Metafisica, e vedo che il punto è un punto non debole, bensì forte e dolente assieme, e questo del verbo che è allo stesso tempo verbo divino e verbo interiore e quindi umano. Il nesso, il legame fatto dall'incarnazione, certamente. E passo subito alle altre domande brevissimamente anche. Per ciò che si riferisce a Kant, ci sono studi su Rosmini e Kant, veramente c'è un parallelo. Rosmini è un autore che forse non ha capito a fondo l'intento metafisico di Kant, però l'ha studiato, l'ha conosciuto anche attraverso le traduzioni francesi, mi sembra, e soprattutto è veramente un filosofo che pensa dopo di Kant, che ne tiene conto, sebbene lo rigetta sulla sponda idealistica e razionalistica. Però i miei brevi cenni erano soltanto per segnalare che nel Kant, la cristologia di Kant fondamentale è l'idea Christi, questo monogramma della ragione, che non troviamo in Rosmini, perché in Rosmini è il caso l'idea Christi, che è importantissima nella cristologia filosofica, è sostituita dal verbo stesso, come oggettivo e come soggettivo, e già siamo in una situazione, in una posizione di fede. Mentre per Kant l'idea Christi fa parte della ragione e misura la fede statutaria, la fede ecclesiale, ecclesiastica nel Cristo, nel Maestro di Mangio. Ho scritto tanto su questo nel mio piccolo libro, che ho anche tradotto all'italiano, La Cristologia Idealistica, che mi permette un po' di vanagloria di rimandare a questo studio. E la seconda allusione toccava la teodizia. Ho soltanto ricordato che è molto interessante nel libro di Kant sulla religione, con questa lotta ignaziana dei due standardi, eccetera. E quindi un libro ricco e bellissimo, quello di Kant, però alla fine, e anche in un altro scritto, dello scacco, e questo che volevo dire, lo scacco di tutte le teodizie razionali, e quindi in questo Rosmini non è kantiano, bensì è tradizionale, è molto più vicino a Leibniz e a Malebranche, con tutte le difficoltà che non ho voluto segnalare, ma forse a Stresa a fine agosto avrò l'occasione di ritornare al tema. Vi ringrazio. Io direi soltanto una parola sull'intervento primo che è stato fatto, in quanto un po' interpellato come teologo, e io anche sono perfettamente d'accordo su questa che lei ha definito il punto cruciale, il punto allo stesso tempo originante. Ecco, da parte mia ho ritenuto molto importante, all'interno di una riflessione che è stata teologica ed è stata su un tema preciso come quello trinitario, evidenziare una particolarità specifica di Rosmini, che è proprio quella di tener conto, come direi, come nervo della stessa discussione, speculazione teologica, di un discorso ontologico, in senso forte. Quindi a me sembra che questo è veramente il punto su cui bisogna riflettere. Venendo al secondo intervento, ecco, lei diceva, se ho capito bene, che usava il termine epistemologia della Trinità. Non penso, io non ho usato, forse ha inteso male, io non, no, perché forse non saprei, ma non penso, non ho proprio usato questa epistemologia della Trinità, in quanto, poi vengo alla seconda parte della sua domanda, ho usato il termine epistemologia rosminiana, epistemologia teologica, di rigore, ecco, di distinzione tra le due formalità epistemologiche, quella diciamo teosofica e quella che Rosmini stesso dice tipicamente teologica. Quindi probabilmente, però la domanda che lei fa mi pare molto importante, questo dell'esperienza soggettiva, Ecco, quello l'ho usata certamente. Ecco, questo dell'esperienza soggettiva, che è un mio termine per esprimere un concetto che mi sembra molto importante in Rosmini, cioè questa dialettica che lui pone tra rivelazione esteriore e rivelazione interiore. Qui c'è, come giustamente lei faceva notare, tutta la problematica della religione naturale positiva, Kant del 93, Fichte nel 92, Jacobi, eccetera. Quindi mi pare interessante proprio come Rosmini, probabilmente anche bisognerebbe vedere quanti rapporti ci sono esplicitamente con la filosofia positiva di Schelling, questo è molto interessante, regressiva e progressiva. Ecco, mi sembra che Rosmini, almeno con il fiuto verso l'attualità che è tipico suo, tiene presente questa problematica e mostra come non vi sia contrapposizione tra una rivelazione di tipo naturale, e quindi esteriore storica, e una rivelazione interiore, quindi opera dello Spirito Santo. Allora, all'interno di questa interessante, perché se noi vediamo la filosofia della rivelazione di questo periodo, perché in fondo nasce proprio in questo periodo, c'è stato quel convegno molto interessante, no, di Olivetti proprio sul tema della filosofia della rivelazione, mi pare nel 94-93, con interventi molto acuti su questo tema. Ecco, Rosmini ha una sua posizione originale. Quello che a me pare più originale, che ho definito esperienza soggettiva della Trinità, è questo. E lui dice: il sentimento dell'uomo, che costituisce poi la persona, dal punto di vista soprannaturale si specifica in un sentimento distinto delle tre sussistenze personali. Mentre la conoscenza, chiamiamola così, dottrinale, del dato trinitario, della verità trinitaria, rimane una conoscenza ideale negativa, quindi sostanzialmente non compie quel movimento di trascendenza, no, di cui si parlava nell'antropologia soprannaturale, invece quando c'è l'azione della grazia, e quindi i termini della conoscenza e della inoggettivazione, no, come la chiama Rosmini, sono reali, ecco, si costituisce un'esperienza soggettiva della Trinità, delle tre persone. Molto interessante vedere come lui distingue come si risale dalla inoggettivazione del Verbo incarnato per mezzo dello Spirito al sentimento della sussistenza personale del Padre. Questo mi pare sono delle cose. Ecco. Quindi mi sembra che questo è un tema che è molto interessante sotto il profilo della filosofia e della teologia della rivelazione. Vorrei dire scandaloso di utilizzare l'espressione epistemologia della Trinità. Sì, sì, sì. Epistemologia si intende una determinata cosa oggi, come si dice oggi. Ecco, sì, certamente, sì, sì. Sì, sì, sì, sì. 30 anni fa. Certamente, sì, sì. Io adesso. Per le cose vanno in basso. Sì, sì, sì. Non è qualcosa di oggettivo in senso categoriale kantiano, esatto, ma è qualcosa di riflessione su qualcosa che c'è, su un problema reale. Sì, sì, capisco. E sì, l'epistemologia di Dante. Sì. L'epistemologia della religione io l'ho usata tranquillamente, sollevò dei problemi della religione. Mi pare che si possa parlare egualmente. Sì, anzi, penso è interessante, perché vorrebbe appunto dire, se capisco bene, che in questo formula epistemologia della Trinità, ecco, vengono a congiungersi, diciamo, la dimensione oggettiva e la dimensione soggettiva. Esatto.